sola come va. Lampadina magica, stringo forte le catene, polvere d'argento nelle vene. Io sono un verme, io non so sorridere, e mi osservo inerme, con inetto a vivere, ero anestesi. Angoscia nello stomaco, veleno ingoio dolcemente, mi tuffo nel disastro lentamente. Ma io sono un verme, io non so sorridere, e mi osservo inerme, con inetto a vivere. Sono senza cura, eppur di che mi curo, sono senza cura, eppur di che mi curo, sono senza cura, eppur di che mi curo, sono senza cura, eppur di che mi curo.